es una emisión totalmente sorpresiva del Empalme Radio Rock y de entretenimiento. Empalme casi siempre es rap, rap, rap, rap, rap, rap. Empalme FM. Have you heard about the new band? Empalme FM. Habla el ingeniero Moto Pescador Urbide, atención. Someone taught me how to We'll be right back. Es una emisión absolutamente sorpresiva y de entretenimiento del Empalme Radio Rock. Don't give it up, Roy Patton. Don't give up. You're tired of fighting. You want some love. You tell me maybe parting is all that's left for us. Y así sigue. Todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde el Cerro El Pindorama. Visión totalmente sorpresiva y de entretenimiento este 8 de noviembre de 2024. Riding along on a carousel. Hollies, on a carousel. Riding along on a carousel. In Palme FM. Female. Points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on a night move. Trying to make some front page driving news. working on a night moon. In the summertime, some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on a nightmare. Trying to lose the awkward teenage blues, working on a night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. El cambalache del Silvio. Empalme FM. You always won every time you placed the bet. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that. Habla el ingeniero Moto Pescador Urbide. Atención. Empalme FM. He was born on a summer day, 1951, and with the slap of a hand, he had you go, lonely boy. His mother and father said, what a lovely boy. We'll teach him what we learned, oh yes, just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody's fool. Oh, oh, what a lonely boy. Oh, what a lonely boy. Oh, what a lonely boy. In the summer of 53, his mother brought him a sister, and she told him, we must attend to her need. She's so much younger. ですであるガンプンとデルゴロボアンアンベラーノマイマイカリエンテアンベラーノミークエインチーです。 フェリックス・カバリエリオンリー・ア・ロンリー・ハッチ ー Like my dreams like a morning star Rocking my worldCould not feel sad, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Hey, only a lonely heart can see what love can be. Hey, only a lonely heart can see what love can be. What love can be.Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest of melodies ever sung. Two strings together that make us one.Could this be going on? Félix Cavalieri, Only a Lonely Heart Sick. Víctor Cabrera Sariz, a 10 de la medianoche de este 8 de noviembre de 2024. Empecé a buscar y no lo encontré, pero encontré el de Víctor. Viste, che, miro el queso y corto el dulce. ¿Qué te parece esta base musical? ¿Estás atento? ¿Estás escuchando? Víctor Cabrera. Prepárate. The preacher taunted me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for one. Barrio de mi vida. Que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril. Días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico, porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que cuanto menos tenemos en riquezas materiales, somos más libres de un sistema que constantemente nos ata y nos somete. Barrio que me diste y me viste transitar tus calles, llevando pan y galleta a la hora que ni los gallos cantaban a Empresa Alonso. Y cuando el lomo no daba más en la subida de lo del bebé de Rocay, le pedíamos fuerza a la vida de nuestra juventud para poder subir parado en los pedales ese repecho. Yo soy del Tacua, soy del Tacuarembó, barrio de mi alma. Hoy te nombro en mis versos y me lleno de emoción porque me siento parte de vos. Soy del Puente Negro, del Puente Blanco, de la Cañada Paredes. Somos lo de los pies descalzos. Nosotros a las termas no íbamos por la 90, íbamos por la vía, por la colonia, porque somos muchas veces los apuntalados, pero siempre estamos presentes cuando nos llama la solidaridad. Yo te amo, barrio mío, y se me parte el corazón. Al escribir estos versos no puedo olvidarme de los de Los Santos, Rivero, Zapata, Correa, Sosa, Santos, Madruga, Rodríguez, Collares, Carlos Mario Batista, Lestarpe, Godoy, Alarcón, Fachín, Albrecht, Cabrera, Milán, Susaya, Garracino, Verocay, Teseira, Pelayo, Rariz, Turbán, en fin, muchos más que hicieron y hacen de este barrio algo distinto de mi pueblo. Somos del Racing, somos de la IASA, somos distintos, somos del Tacuarembó. Cierro los ojos y me imagino el grito de yo soy la salsa, el popular salsa del Tacua. Cómo olvidarme del Velo de los Santos, maratonista como ninguno, junto con Virico. Barrio de calle de piedra, barrio donde la vida se pelea de verdad, donde las promesas de mejor porvenir llegan en épocas de lesión, pero duran poco y se van. Pero este barrio vive y lucha porque tiene soberanía propia de gente trabajadora y servicial, donde vecinos se juntan para ayudar al que necesita. Hoy solo quería homenajearte a vos, barrio mío, barrio de mi alma, que me viste andar tus calles de gurí. Solo decirte gracias por darme valores y principios. Yo salí de vos, yo soy lo que vos me enseñaste y me diste de niño. Gracias, barrio de mi alma. Salud al gran barrio Tacuarembó. You're a holiday, such a holiday. Empalme FM. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones. Throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. can't think what I just said. Put a soft pillow on my head. Millions of eyes can't see, yet why am I so blind? When the someone else is mean, it's unkind, it's unkind. Yet millions of eyes can't see, yet why am I so blind? When the someone else is me, it's unkind, it's unkind. We are a holiday, every day such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile, if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Atento Gavilán, Atento Gavilán, en los siguientes lugares de la costa atlántica, están escuchando el Empalme Radio Rock. Aguas Dulces, Atlántida, Barra de Balizas, Cabo Polonio, José Ignacio, La Paloma, La Pedrera, Piriápolis, Punta del Diablo, Punta del Este, Santa Teresa, Parque del Plata, Araminda, Balneario Argentino, Balneario Solís, Barra del Chuy, Bella Vista, Bello Horizonte, Costa Azul, Cuchilla Alta, El Fortín, Guasubirá, Jauregui, Berri, La Coronilla, La Esmeralda, La Floresta, La Tuna, Las Flores, Los Titanes, Marindia, Neptunia, Pinamar, Salinas, San Luis, Santa Ana, Santa Lucía del Este, Villa Argentina, Ciudad de la Costa. Ampliaremos. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. The day I left her standing on her own, trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I want. Empalm. Desambiguación. Vulgarmente, empalm se utiliza como sinónimo de erection, anelectricidad, Empalme Eléctrico se refiere a la union de dos o más conductores. Entonces podemos decir que estamos decididamente erectos y empalmados. Segan Wiki. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalm. Mette le musica. Empalme FM. Saw the signs. You're the last to know when love is blind. From the tears and the turbulent years when I would not wait for no one. In the stop, take a look at myself. See me losing you. For you it's good. como todos ya deben estar sabiendo, Radio El Empalme se encuentra en un periodo de profundo revival espiritual y musical. Van pasando con gran dificultad y enorm sufrimiento para las clases obreras del Uruguay, los cinco años de han despiadado la callato. Hambre, privatización, represión y corruption. Todavía falta como un año y pico, y no sabemos si saldremos vivos. Metele música capincho. There's a light, a certain kind of light, that never shone on me. I want my life to be, live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? To love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Finita fantástica historia la vi. Qué fantástica historia la vida. Si è finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore, e del mare del pesce sento ancora l'odore di mio padre e mia madre. Su questa croce, nelle notti d'estate, sento ancora la voce. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Che fantastica storia la vita. Sono la quarta di 3.000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva. E quando penso che sia finita, è proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia è la vita. Conglomerado Sucaca, la República Oriental del Uruguay se divide actualmente en departamentos, para ser exactos 19. Los departamentos de Uruguay son Artigas, Canelones con Tuco, Cerro Largo, Colonia, Durazno, en Almíbar, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Largo, San José, Soriano, Tacuarembó y 33, y uno más que sería el 20 llamado Conglomerado Sucaca. Ha sido otra info al pedo de Radio El Empalme desde algún punto del globo. Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. E ora che sta full con Nocci Canale, ah. Vedrai che ti vedrai nel taglio dei capelli, ai quanti ne tagliai, nel mare ti vedrai, nel mentre la canzone, l'estate bella assai. Nel mentre la canzone e tu scontenta stai, prestata agli anni tuoi, poi dopo penserai, quel certo sole dove mai, negli anni tuoi che vivi dopo. In penombra sfogliando foto, riguardando un film. Questi anni ormai finiti, che non c'è vita più, ma strampala timidi, e quanti ne vedrai passare e andare via. La storia è lì che sta, in un disegno che guardai. L'estate bella assai, e la canzone, i minuti della mia vita tenera con me. Tradiscono i decenni, puoi farci quel che vuoi. Decenni, amore o minghi, ma non ci fai l'amore. Son lontanos los encargados de cerrar. Così la lirica, andandomi da qui, Amadeo Minghi, Veceri, guardandolo da qui, fu un bel decennio troppo allegro, ma non mi pare, io non lo notai. Tradiscono i decenni, decennio che volò, nell'auto e sulla moto, su quei modelli andò, stilistico volò, fatico a ritornare, ed erano anni miei, decennio che è passato, sfrecciato, andato via. Questi anni non li avrai, tradiscono i decenni. Yeah, sì, sì, due. Yeah, sì, sì, due. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el cero el boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts radio el Empam Radio Roque. Battene un muro, che siamo ancora in tempo. Credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no. I treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò rotolina amorosa, ta-ta-ta-ta. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là. Sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore. Vattene un po', che pace più non avrò. Vattene o saranno guai, che piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà. Il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ancora ti chiamerò, rotolina amorosa, tu-tu-ta-ta-ta. Il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà. Il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartellone che fa la pubblicità sulla strada per me. Io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora l'altro sol. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli. Questi anni non li avrai, se non li perderai. Ho camminato per le strade col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore per noi, per questo bel dolore, ti prego lo sai, sogno qualcosa di buono. Come te, che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo proprio come te. Yeah. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara. Bella quiete sulle rive, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Ma dove andranno i giorni e noi, le fughe poi ritorni, ti prego lo sai, sogno qualcosa di buono. Il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo proprio come te. Yeah. Siamo caduti in volo, mio sole. Siamo caduti in volo. Siamo caduti in volo, mio cielo. Siamo caduti in volo. Questo amore immenso per noi, del dolore che sento, ti mentre golo sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come te. Los Mirasoles 97.5 retransmitiendo Radio El Empalme. Que ho bisogno di qualcosa di buono che mi illumini il mondo proprio. Palme FM. Lo sai, fratello, siamo nella merda. A proposito, come ti va? E quei bambini giocano alla guerra. Dov'è questo wonderful? Sempre sulla soglia. Dov'è questo wonderful world? Vado via domani e non torno più, yeah. Prima che io salti faccio un salto nel blu. Sali. Anima in depression. Oh, yeah.